Europa 24. Quale Parlamento europeo si prepara nei prossimi 5 anni di legislatura? Buongiorno da Sergio Nava. Oggi a Europa 24 andiamo a indagare le priorità degli eurodeputati italiani che siedono alla plenaria di Strasburgo. Ai nostri microfoni Alessandra Moretti, eurodeputata PD e gruppo socialisti e democratici, nonché membro delle commissioni giuridica e di quella per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere. È un'Europa che secondo me deve cambiare volto, anche nelle cose più semplici, anche nelle cose più piccole, e sull'Italia c'è una grande attesa, sentiamo addosso e sulle spalle una grandissima responsabilità. Vogliamo cambiare volto l'Europa e vogliamo coronare il sogno degli Stati Uniti d'Europa. Questo dobbiamo fare, lo potrà fare soprattutto la generazione di giovani che qui dentro si sta impegnando. Questa è una visione molto federalista che diciamo non solo osteggiata da chiaramente dagli euroscettici, ma anche dalla parte forse più di centrodestra. Alcuni partiti di centrodestra non hanno una visione così netta e gli stessi partiti del centrosinistra, magari nordico, non hanno una visione così federalista. È un obiettivo che vede possibile? Io credo di sì, e soprattutto credo che la delegazione italiana tutta, se sarà compatta in questo, potrà condizionare pesantemente la politica europea. Del resto noi abbiamo sempre detto che dobbiamo costruire un'Europa che sia meno legata ai vincoli, meno legata ai bilanci, meno legata alla finanza, ma più orientata invece alla crescita, allo sviluppo, all'innovazione, alla green economy, e soprattutto che rimetta al centro della propria azione politica l'occupazione. Parlando di dossier che si aspetta da questa legislatura, parliamo di un arco di 5 anni, quindi molto ampio. Quali sono i dossier, prima a livello generale, poi andiamo anche su quello che lei farà, però a livello generale che si aspetta da questo Parlamento europeo, si aspetta che chiuda? Dobbiamo innanzitutto orientare la politica economica sulla flessibilità e non sul rigore, per dare appunto respiro alla crescita e l'occupazione. Quindi questi saranno i due punti chiavi. Lavorare molto sul patto di stabilità, quindi per consentire anche ai comuni virtuosi di non rientrare in quei vincoli che oggi invece ci sono, soprattutto quando le risorse vengono orientate allo sviluppo, alla crescita e anche alle infrastrutture. E personalmente lei dove si impegnerà, in cosa si impegnerà? Io sarò all'interno della componente giuri e quindi è una commissione importante, quella giuridica, che si occuperà di regole, quindi anche contrattuali, appalti. Farò parte della commissione IMCO, che è quella appunto che tratterà il grande tema del Made in Italy, quindi un tema strategico per l'Italia, e poi infine occuperò anche la commissione FAM, pari opportunità, quindi la lotta forte alle disuguaglianze, quelle che colpiscono in particolare donne e giovani. Questa è una legislatura particolare, una legislatura che nasce sull'onda di un voto pesantemente euroscettico anche in Italia, ma soprattutto in alcuni paesi europei. È chiaro che a questo punto i cittadini vogliono una risposta chiara e concreta dall'Europa su cosa veramente possa fare per loro e per risolvere i problemi, in primis quello ovviamente della crescita, dell'occupazione. Lei si aspetta che questa legislatura ce la farà, e se non ce la farà cosa accadrà a quel punto? Ma non possiamo non essere ottimisti, dobbiamo esserlo e dobbiamo impegnarci. Io credo che l'Italia possa condizionare. Abbiamo preso il Partito Democratico, in particolare ha ottenuto oltre il 41% dei consensi. Ripeto, ci sentiamo addosso questa grande responsabilità. Credo che ce la possiamo fare se tutta la delegazione italiana farà lobby e quindi si unirà nel portare avanti anche gli interessi, soprattutto dell'Italia, gli interessi delle imprese, dei lavoratori autonomi. Io credo che, per esempio, uno dei temi strategici di cui mi occuperò personalmente sarà la semplificazione amministrativa, la sburocratizzazione, quello cioè che rallenta la crescita e lo sviluppo. E poi non dimentichiamoci il grande tema dell'immigrazione. Io credo che l'operazione Mare Nostrum, da parte della nostra Marina Militare, da parte dei nostri militari del governo, sia stata un'operazione che, grazie alla quale, si sono salvate centinaia di vite umane. Vorrei dire che forse l'Italia si meriterebbe, visto che è stata lasciata sola dall'Europa in questi anni, un premio Nobel per le tante vite che ha salvato. Dobbiamo chiedere all'Europa di più, dobbiamo che la questione immigrazione venga gestita come una missione europea, e dobbiamo finalmente anche riconoscere un esercito europeo, quindi più strutture, più finanziamenti, più risorse per risolvere il problema appunto dell'immigrazione. Ed è tutto per questa edizione di Europa 24, ancora un saluto e un augurio di buona giornata da Sergio Nava. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.